4 mattino. Mi è venuto un sospetto, siccome ho visto che gli aumenti, un cappuccio da 1,20 è arrivato a 1,50, il caffè ognuno fa come pare al rialzo. Io vorrei dire, ma io capisco che hanno avuto delle difficoltà, ma adesso non è che bisogna compensare le difficoltà con la gente che va al bar per consumare, perché più delle volte chi che va al bar per consumare magari anche lui ha avuto delle difficoltà. Bello ascoltare un giornalista spagnolo e sentire sostanzialmente che sono come noi, con i difetti, con gli 0,5. Poi senti un tedesco e tutto va bene, tutto è perfetto lì. Non è tanto che se apri i bar la gente ci va, è se vuoi che i bar sopravvivano che la gente deve andarci. E perciò questa ipocrisia si scioglierà da sola quando vedranno che non ci stanno dentro con certe limitazioni troppo stringenti. Ed ecco le vostre voci. Noto nell'ascoltatore che ci parlava della Spagna, prima abbiamo avuto ospite Jorge Marín Rodríguez, editorialista del País, che sono quasi una certa soddisfazione nel notare che i paesi mediterranei hanno un po' la stessa gestione. Sull'aumento dei prezzi, l'aumento dei prezzi dei caffè e via dicendo, c'è finora, io le evidenze che ho visto sono quelle che ci arrivano dall'associazione dei consumatori. Codacons su tutti, poi anche Consumatori ha fatto qualcosa, non so quanto effettivamente sia diffuso tutto questo. Tenga presente però un altro elemento: se anche questo aumento dei prezzi c'è stato e se effettivamente è così diffuso, tenga presente che non è solamente il fatto di, e qua torniamo al messaggio poi del secondo ascoltatore, non è solamente quello che hanno sofferto i bar, i ristoranti, insomma questi luoghi, ma è anche quello che devono gestire adesso. Cioè sono locali che vanno sanificati molto più spesso, le regole sono più stringenti, devono comprare i dispositivi di protezione per i loro lavoratori, devono cambiare questi dispositivi di protezione ogni giorno, cioè i costi di gestione diventano più alti. Anche i costi della logistica sono cambiati, insomma è tutta una catena, no? Che può portare evidentemente ad un aumento dei prezzi. Insomma, ripeto, però non so quanto sia diffuso. Finora abbiamo rilevazioni delle associazioni dei consumatori. Io su queste cose tendo a fidarmi dell'Istat e aspetterei i dati dell'Istat per vedere un po' se questi incrementi, se questi innalzamenti di prezzo ci sono stati. Intanto, se volete mandarci la vostra rilevazione personale, ebbene, siamo qua, 349-238-6666, SMS, WhatsApp audio. Il caffè è aumentato oppure no? Questo è 24 mattino, è la seconda parte, sono le 7:23 minuti e 9 secondi, è giovedì 21 maggio ed è la parte dedicata alla rassegna stampa, con una serie di giornali che si concentrano sul temone di queste ore, la movida. Troppa gente a bere in giro, troppo vicini, contagio da movida, stop ai locali, titola il Messaggero, escalation degli assembramenti, stretta del governo, controlli rafforzati e multe fino a 3.000 euro. Il Quotidiano Nazionale, ordine ai questori, fermate la movida. Contagi, alto là alla movida, è il titolo del Corriere della Sera. La Repubblica mette l'accento sui dimenticati, su una parte dei dimenticati, forse la parte più consistente, i bambini. Fase 2, 8 milioni di bambini dimenticati, è il titolo, gli asili e le scuole chiusi, molti parchi sbarrati, centri estivi soltanto tra un mese. La Stampa apre con Di Maio che dice sì al nuovo codice degli appalti. Si concentrano sulla giustizia, La Verità e Libero. le chat dei magistrati su Salvini. Ha ragione, però va attaccato. La Verità, insomma, sta lavorando su queste chat del PM Palamara. Ci arriviamo tra un attimo. Libero, il lupo Renzi emette Belati ed è sul no alla sfiducia a Bonafede. Le regioni scaricano medici e infermieri, il titolo del Fatto Quotidiano. Bonus zero da fame per chi ci ha salvati. E Avvenire sul caso Malta, invece, che era stato sollevato ieri, per chi non avesse ascoltato la puntata ieri della rassegna stampa. Avvenire apriva con questa documentazione anche video, ovviamente non sul quotidiano, ancora non c'è una cosa di questo genere, però sul loro sito c'erano le foto di Malta che... i profughi una volta i profughi arrivano nelle loro acque territoriali li rispediscono in Italia, lo fanno direttamente le navi militari. Caso Malta, l'Italia pronta a muoversi, è il titolo di Avvenire. Infine il Sole 24 Ore, l'apertura è dedicata alla partenza della presidenza confindustriale per Carlo Bonomi. Discontinuità e riforme strutturali è il titolo, ed è presentato anche l'integrale dell'intervento del neo presidente di Confindustria in assemblea privata. L'obiettivo è riconquistare in 3 anni il PIL perduto, è il titolo. Si parla anche di partite IVA, il 60% degli autonomi ha perso un terzo del fatturato, e delle parole dell'Europa all'Italia, sostenere la liquidità. E infine, cosa ci manca? Ci manca il Giornale con il titolo Reddito ai mafiosi, il sussidio finisce anche a 101 boss dell''Ndrangheta, e il Manifesto, lingotto d'oro su Fiat Chrysler, perché ieri il CAN ha confermato il dividendo straordinario da 5 miliardi e mezzo, parte dell'accordo con Peugeot. E dunque iniziamo. Beh, oggi direi che non possiamo che iniziare da tutta questa questione della movida, tutte le proteste dei sindaci, degli amministratori locali, dei prefetti per il fatto che si è vista troppa gente in giro, senza precauzioni, senza mascherine. Insomma, nella prima parte, alle 6:30, vi abbiamo letto l'editoriale di Alessandro Sallusti sul Giornale, no? Un no alla libertà vigilata, dice, insomma, nel quale dice voler legiferare sulla sana incoscienza dei bambini, sugli ormoni degli adolescenti, sulla necessità relazionale dei giovani o sulle libertà personali degli adulti è una battaglia illiberale, ma soprattutto contro i mulini a vento. È un po' questo il tema che sta attraversando il dibattito in queste ore. Tornare a dare multe pesanti, sì o no? Oppure questo scampolo di libertà guadagnato in questo inizio di fase 2, uno scampolo di libertà che va mantenuto sapendo che ci sarà qualche irresponsabile? È la domanda che un po' ci si pone. Fatto sta che sulla cronaca possiamo andare su Cristiana Mangani, sul Messaggero, a pagina 3, che ci chiarisce questo. A 3 giorni di distanza possiamo dire che la moral suasion non è bastata, non è ancora tempo di movida. Quelle foto con i bicchieri in mano, senza mascherine, tutti insieme hanno fatto decidere che bisogna correre ai ripari prima che sia troppo tardi. Ed è per questo che già da oggi si ripartirà con controlli molto più serrati, proprio in quelle zone dove i giovani amano andare. Ieri il premier Giuseppe Conte ha chiesto alla ministra Luciana Lamorgese maggiore severità, mentre nei giorni scorsi l'invito era ai controlli, ma con cautela, perché è facile che se si riaprono, come è successo da lunedì scorso, tutti i pub, i bar, i ristoranti, i giovani chiusi in casa da più di 2 mesi tentino di riprendere i propri spazi. Un'evoluzione negativa, insomma, che potrebbe portare nuove multe. Sono molte le voci dal territorio, no, che si raccolgono su questo tema. Ad esempio Guido Silvestri, 58 anni, docente alla Emory University di Atlanta, è un virologo e viene intervistato da Alessandro Malpelo sul Quotidiano Nazionale. Perché qua ci sono c'è un fronte degli ottimisti e un fronte dei pessimisti. Silvestri è tra gli ottimisti e soprattutto tra le persone che dicono non possiamo continuare come abbiamo fatto fino alla settimana scorsa. Abbiamo il dovere di tornare a una vita normale, mantenendo ovviamente quelle buone abitudini di igiene personale che grazie al virus abbiamo finalmente imparato. Sta facendo il giro del mondo l'appello di Guido Silvestri, immunologo e docente di patologia appunto alla Emory University di Atlanta, Stati Uniti, nella sua rubrica intitolata Pillole di ottimismo sul suo profilo Facebook e rilanciata sui social, affronta l'emergenza coronavirus invocando un cambio di passo in quanto non possiamo continuare a chiedere sacrifici enormi. Qual è il tema? Il tema è questo confronto tra il virus e tutto quello che porta e la dimensione umana da recuperare. Il Gazzettino è forse il quotidiano che dedica più spazio a tutto questo, perché c'è un caso Padova, ci sono le immagini che si sono viste di questi ragazzi in fila che parlavano, molti senza mascherina, davanti a un bar, il Gasoline, il locale dell'Arcella, il più popoloso quartiere padovano, che a 2 giorni dalla riapertura post-lockdown ha preso una decisione radicale. Chiudere al pubblico e tenere solo i servizi di asporto e consegna a domicilio, dopo che queste foto hanno fatto il giro d'Italia. Bere una birra, dice, deve essere un momento di relax, non una sofferenza per il cliente e un onere per il locale. Specialmente non può e non deve essere l'occasione per colpire alle spalle chi sta cercando di risollevarsi da una crisi mai vista prima. Così appunto sul Gazzettino, intervistato da Serena De Salvador. Gazzettino che pubblica anche, lo diciamo prima, questa intervista al prefetto, il prefetto di Venezia, che si è fatto una passeggiata lui per le calli, i campi di Venezia. Non hanno capito, se continua così chiuderemo tutto, dice il prefetto. Cosa ha visto nella passeggiata tra calli e campi? Gli chiede Nicola Munaro. Sono stato in giro un paio d'ore nel centro di Venezia, ho visto frotte di ragazzi e ragazze seduti sulle panchine o ai tavolini senza mascherine. Si parlavano senza distanziamento, senza precauzione come prima del virus. Sono rimasto sbalordito dalla superficialità e dalla noncuranza di questi comportamenti. Non penso che questo modo di fare ci porti tanto avanti. Così il prefetto di Venezia. Una pausa. Mattino. Gli equilibrismi linguistici che usate per difendere questo governo sono veramente imbarazzanti. Sono veramente imbarazzanti. Un governo che sta a galla perché un senatore di Firenze si permette di fare o di non fare è veramente imbarazzante. Quali dati? Ma quale consenso? Ma dove vivete? Ma voi vivete un altro pianeta? Ma non lo sopporta più nessuno? Ma cosa dite su? Ma per piacere. Volevo fare un complimento al senatore Renzi, che ieri ha fatto un intervento per il 98% criticando Bonafede e concludendo: però io voto contro la mozione di sfiducia. Oh, complimenti, Ivano. Oh, ma non lo diciamo noi che Conte ha un discreto consenso, lo dicono i sondaggi, E sugli equilibrismi per la difesa del governo, guardate qua, tutti ci scrivono, qualcuno ci scrive che lo attacchiamo troppo spesso, qualcuno ci scrive che invece lo difendiamo, facciamo il nostro mestiere, semplicemente. Va bene, ci arriviamo alla politica tra un attimo, ci arriviamo. Vi voglio solo segnalare un altro paio di cose prima di arrivarci, e cerchiamo di far abbastanza rapidi. Innanzitutto, pensiamo che sia, per così dire, tutto in ordine, come abbiamo gestito le cose e come sono gestite le cose dal punto di vista sanitario in Italia? L'Europa ci dice di no. E Marco Bresolin, inviato a Bruxelles della Stampa, lo racconta in un buon pezzo a pagina 6, appunto, del quotidiano, nel quale ci racconta che nelle sue raccomandazioni per tutti i paesi europei, la Commissione dice all'Italia che ha debolezze strutturali del sistema sanitario e scarsità di coordinamento tra le autorità centrali e regionali. Sono due delle cause che hanno aggravato la crisi sanitaria da coronavirus nel nostro paese. Il passaggio è cruciale perché potrebbe essere proprio sulla base di questi programmi di riforma, cioè le riforme appunto anche del sistema sanitario, che saranno concessi i sussidi del famoso Recovery Fund, che è il fondo sul quale, come abbiamo raccontato, Francia e Germania hanno trovato un accordo per 500 miliardi di euro e che in questa fase in discussione tra i paesi europei, con l'Italia che chiede qualcosa di più e invece altri paesi come per esempio l'Austria e l'Olanda che tirano il freno e dicono no, perché ci sarebbe una condivisione del debito. La partita europea è ampia e complessa, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Testimonianza ne sia quello che è successo ieri nell'incontro tra i ministri del turismo e della cultura europei, che chiaramente non è un incontro, cioè una discussione in forma virtuale, un incontro e una discussione che si conclude con qualche difficoltà per l'Italia. Italia che vorrebbe una riapertura dei confini e vorrebbe riportare i turisti nel nostro paese e però si deve scontrare con un muro austriaco, come racconta il Messaggero a pagina 14. Bruxelles, ovviamente, il ministro degli affari esteri francese durante una riunione in videoconferenza ha chiesto un maggiore coordinamento delle decisioni a livello europeo. L'Italia appunto chiede di riaprire, cerca di evitare l'isolamento. L'affondo più diretto però arriva dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che ha definito irresponsabile, alla luce dei dati epidemiologici, la possibile riapertura dei confini con l'Italia. Noi continueremo a muoverci, ha specificato, tra paesi che hanno una linea epidemiologica comparabile tra di loro. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che fino al 15 giugno i confini tra Austria e Italia restano chiusi, come spiega bene a pagina 8 il quotidiano nazionale. L'Austria ci isola, il Brennero resta chiuso, è il titolo del pezzo di Ettore Maria Colombo, che racconta di questa intervista appunto di Sebastian Kurz al quotidiano Tiroler Tageszeitung. Rispondendo proprio ad una domanda sulla possibilità di aprire le frontiere tra Austria e Italia, parla di ipotesi irresponsabile. Ne soffrono ovviamente tutti, ne soffre l'Italia, ne soffrono i confinanti cugini altoatesini e sudtirolesi, che pure registrano zero contagi e tanti guariti, le cui speranze di veder riaperta la circolazione al Brennero vanno in fumo. Tutto bloccato almeno fino al 15 giugno. Poi si vedrà, per quanto l'Italia insista sul fatto che sono inammissibili delle blacklist all'interno dell'Unione Europea. Però, come capite bene, è un po' un pezzo, tutto un pezzo della stessa partita, ed è la partita che ha a che fare anche con Recovery Fund e con i fondi europei. Si tira da una parte, si tira dall'altra ed è una ovvia trattativa politica. Ne parleremo tra poco anche col ministro degli affari europei Enzo Amendola, sarà ospite mio e di Maria Latella, e poi avremo anche il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Cristian Solinas, il presidente sardo, per parlare proprio di turismo. C'è tutta la questione politica, ci avete mandato un po' di messaggi su questo, li abbiamo fatti sentire. C'è il tema di Bonafede, ne trovate traccia su tutti i quotidiani, anche analisi, retroscena, l'apertura, ve l'abbiamo raccontata, l'apertura di Libero che attacca molto duramente Renzi, no? Il lupo Renzi emette belati, Italia morta, governo vivo, per la decisione appunto di Matteo Renzi di non votare la sfiducia al ministro Bonafede. Racconta il Sole 24 Ore in un pezzo di Emilia Patta ed Emanuela Perrone. Ora si apre il fronte cantieri, perché insomma nella trattativa per salvare Bonafede Italia Viva ha messo il tema dell'apertura dei cantieri, e Lina Palmerini firma un commento nel quale ricorda, tra le altre cose, che non c'era pathos sul voto di ieri. Si sapeva come sarebbe andata già dalla vigilia, da quell'appuntamento di Maria Elena Boschi a Palazzo Chigi, chiaro segno di un negoziato in corso, e quindi i renziani evidentemente hanno spuntato qualcosa. Vedremo cosa sarà esattamente nelle prossime ore. C'è tutta una questione aperta che prescinde da buona fede e ha a che fare con la giustizia e con i magistrati. Lo trovate un po' dappertutto, però il quotidiano che più sta insistendo su questa vicenda è il quotidiano La Verità, che sta pubblicando di fatto tutte le chat di Luca Palamara, sospeso dal CSM, l'ex PM, e queste chat fanno parte dell'inchiesta che lo riguarda. Simone Di Meo oggi firma un pezzo che poi è l'apertura del quotidiano La Verità, che a naso è destinato a far discutere anche la politica. Mi dispiace dover, si apre con un virgolettato, mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il ministro dell'interno interviene perché questo non avvenga, e non capisco cosa c'entri la procura di Agrigento. Questo dal punto di vista tecnico, al di là del lato politico, tienilo per te. Ma sbaglio? Confidando nella segretezza di WhatsApp, così ragionava non un ultraleghista, ma il capo della procura di Viterbo, Paolo Auriemma. A rispondergli Luca Palamara, oggi indagato a Perugia per corruzione. No, hai ragione. Ma ora bisogna attaccarlo. Insomma, La Verità prende spunto da tutto questo per aprire il giornale esattamente con questi temi, le chat dei magistrati su Salvini. Ha ragione, però va attaccato. Il riferimento è chiaramente al blocco dei migranti, al blocco messo alle navi delle ONG da parte dell'allora ministro dell'interno Matteo Salvini. Allora, ancora un paio di segnalazioni. Cattivo, piuttosto cattivo il pezzo che trovate sul giornale a pagina 7 su Luigi Di Maio. Pomigliano e Harvard, racconta il titolo del pezzo di Paolo Bracalini. Di Maio ha sistemato 5 compagni di scuola, racconta. Dice Bracalini, insomma, che a Parigi c'è Science Po, ci sono le scuole di alta pubblica amministrazione, e a Pomigliano c'è il liceo Imbriani, che sforna alti dirigenti pubblici con una frequenza portentosa. Altro che college americani con rette altissime, i figli conviene mandarli a studiare lì, nella ridente Pomigliano, almeno finché c'è Di Maio al governo. Carmine America, ex scolaro del suddetto liceo negli anni in cui lo frequentava Luigi Di Maio, l'amico America, la sua America l'ha trovata nei palazzi del potere romano, prima con una sontuosa collaborazione col Mise e poi con un incarico agli esteri sempre al seguito di Di Maio. Altro ex studente del liceo Imbriani, Pasquale De Falco, sconosciuto commercialista ovviamente di Pomigliano, titolare di studio sito a soli 800 metri. Un incarico presso l'azienda speciale multiservizi di Pomigliano, nel collegio sindacale dell'ASL di Salerno, poi rappresentante del Ministero della Salute quando ministro era la pentastellata Giulia Grillo, e ancora Dario De Falco, stesso cognome o parentela non sappiamo. Anche lui a occupare poltrone, anche lui amico d'infanzia di Luigi Di Maio, che occupa poltrone a Roma grazie all'ascesa miracolosa che appunto di Luigi Di Maio, che da vice premier aveva chiamato Dario De Falco, malgrado il curriculum modestissimo come capo della segreteria politica a Palazzo Chigi, sincerandosi che si sistemasse a dovere anche col nuovo governo. Tanto che è rimasto come consigliere del sottosegretario Riccardo Fraccaro. Così Paolo Bracalini sul giornale a pagina 7. Traffico. Mattino. Ultima parte della rassegna stampa col nostro direttore e direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Ciao Fabio, buongiorno, buon giovedì. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, apertura del Sole 24 Ore dedicata all'assemblea privata di Confindustria ieri, che ha nominato Carlo Bonomi alla presidenza con maggioranza praticamente assoluta, con, o meglio, con un 99% dei voti, e l'intervento dello stesso Bonomi che in assemblea privata appunto ha detto l'obiettivo è riconquistare in 3 anni il PIL perduto. L'attenzione si concentra tra l'altro sulle pastoie burocratiche, no? Create da questo, da questa sequenza di leggi su Covid-19, ma non solo su quelle. Sì, questo della burocrazia che soffoca l'attività di impresa in Italia è un tema che per la verità non è nuovo, ma è anche un tema a cui la pancia degli imprenditori italiani è davvero molto sensibile. E siccome un po' il programma, se vogliamo andare a una sintesi delle sintesi del nuovo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, è proprio quello di tenere conto degli umori e della pancia dell'imprenditoria, ecco che non poteva mancare nell'intervento di esordio un riferimento proprio alla necessità di stroncare la burocrazia, battaglia difficile, però forse proprio la gravità della crisi legata alla pandemia può rappresentare un'occasione formidabile per tentare di scrollare l'albero. Non è facile, è una battaglia anzi piuttosto difficile, credo che però valga la pena nell'interesse di tutti cercare di combatterla. Sul Sole 24 Ore di oggi, ancora, il visto che siamo insomma sugli imprenditori, passiamo alle partite IVA, agli autonomi ci sono finalmente i dati, perché? Perché tutti gli aiuti sono collegati al fatto sia che si sia perso almeno un terzo del fatturato. Ebbene, il 60% degli autonomi ha perso almeno un terzo del fatturato, i dati li pubblichiamo oggi. E molti anche di più, il popolo delle partite IVA è uno di quelli che ha sofferto più degli altri da questo periodo di chiusura totale delle attività. È un popolo che magari fatica ad avere rappresentanza perché è molto parcellizzato, sparso sul territorio, però ha sofferto davvero molto. E io non so, ho qualche dubbio che la distribuzione di denaro a pioggia possa rappresentare davvero la soluzione del problema, però forse è meglio di niente, ma certo non è lì che si gioca la scommessa del futuro della ripresa dell'economia in Italia. C'è tutta la partita europea, ne parlavamo già poco fa, Fabio, una partita anche molto politica nella quale si sono inseriti tutta una serie di paesi del nord che osteggiano la proposta franco-tedesca di un recovery fund da 500 miliardi, almeno per il momento da 500 miliardi, e che con la leva potrebbero essere di più. E insomma qua c'è un'attenzione che si rivolge ai paradisi fiscali interni all'Unione Europea, al tema del dumping fiscale da parte della Commissione. Meglio tardi che mai, finalmente ieri l'Unione Europea ha battuto un colpo denunciando il dumping fiscale di alcuni paesi che proprio dell'Unione Europea fanno parte e che magari sono proprio i più rigoristi, in primis l'Olanda. Bene, è ora di piantarla con questo dumping fiscale. Noi come Sole 24 Ore documentiamo da tempo e anche oggi con un servizio molto documentato lo scandalo di paesi che in Europa hanno normative fiscali diverse e lo scandalo dell'esistenza in Europa di paradisi fiscali. È ora di smetterla. Finalmente ieri l'Unione Europea ha battuto un colpo, speriamo ne seguano altri, ma non bastano le parole, occorre passare ai fatti, perché è ora di finirla col fatto che se una società è in Italia, paga le tasse di un certo tipo, trasferisce la sede in Olanda e ne paga molto meno. Ci stiamo pigliando in giro? È ora di finirla. Sì, qua c'è un pezzo di Roberto Galullo e Angelo Mincuzzi, nel quale si citano anche le parole del commissario europeo all'economia, Paolo Gentiloni, il quale dice che non può esserci spazio per pianificazioni aggressive nell'Europa della solidarietà e dell'equità, e ci sono 6 paesi sotto la lente di Bruxelles: l'Olanda, l'Irlanda, il Lussemburgo, Cipro, Malta e l'Ungheria. Commissione europea che ieri comunque è intervenuta sull'Italia con, le citavamo prima, le raccomandazioni dal punto di vista sanitario, ci sono anche delle raccomandazioni dal punto di vista economico sul tema delle garanzie dei redditi e della liquidità. Voglio chiudere con una buona notizia, cioè c'è un'industria che in questo momento, anche grazie agli incentivi e non solo a quelli, regge e va molto bene, è quella della bici, Fabio. Abbiamo la fotonotizia dedicata a questa sul Sole oggi. Certo, l'abbiamo messa in prima pagina, ha anche un significato simbolico. Utilizziamo il male della pandemia anche a qualche fin di bene, e certamente se si pedalando di più miglioriamo la nostra salute, le nostre città e anche l'ambiente. Quindi viva la bicicletta! Grazie Fabio Tamburini, grazie al nostro direttore. Ci risentiamo giovedì prossimo. Adesso ci fermiamo, c'è GR24, ci ritroviamo subito dopo con Maria Latella, avremo ospite prima il ministro appunto agli affari europei Enzo Amendola, sarà con noi poi Luigi De Magistris, il sindaco di Napoli, col quale parlare tanto della città alla luce di Covid-19, quanto delle vicende che hanno a che fare con la magistratura, e poi Cristian Solinas, il presidente sardo, per farci dire un po' di questa sua idea del passaporto sanitario. 349-238-6666 per i vostri sms e messaggi su WhatsApp, anche audio, 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. A fra poco.